Come stai? È la frase d'esordio nel mondo. Canto, no, tutto bene. Ho una casa e sto lavorando ogni giorno. Che cosa vuoi che dica? Di cosa vuoi che parli? Pane e acqua è un modo di dire colloquiale della lingua italiana. Si utilizza per indicare una punizione carceraria durissima, un pessimo trattamento e anche per sottolineare grandi ristrettezze economiche. Oppure essenziale, costitutivo dell'essenza, quindi sostanziale, indispensabile. Freschissimi. Ciao. Ehi. Freschissimi. Freschissimi, ma che bello trovarci qua in questa serata estiva quasi, primaverile. Sì. Con infatti tutti i SUV parcheggiati fuori. Esatto. Possiamo sì dirlo che questo posto è stupendo. È stupendo. D'estate. Grazie Radio Zam. Grazie Radio Zam. E rieccoci, siamo noi, sempre il trio di fuori dal comune. Oggi la marca ha la voce bassa. Sì, scusatemi, perché forse ho appena fumato una sigaretta, quello che mi ha un po'... Col naso, esatto. Ti sei ingracchiata Mi sono ingracchiata. Niente, io volevo comunque fare outing, perché i due al mio fianco sono di un colore imbarazzante per essere il 25 maggio 2021. Io sono bellissima oggi. Beh, ovviamente siete bellissimi. Beh, la premessa generale è che siete stupendi. Top sempre form. Ragazzi, prenotatevi. Ragazzi, cercate Marzi su Instagram. Marzi sembra un oro saiva. È abbastanza vero, però. Bellissimo. È abbastanza vero. Comunque siete imbarazzanti. Io mi sento una specie di lenzuolino con le gambe, ma va bene. E dire ma che tu non sai mi quanto vedo così bello. Ma voi siete sempre belli, abbronzati, non abbronzati. Certo che se poi andate al mare, tornate che mi fate sfigurare. Ci teniamo a dire che siamo andati al mare, ma a lavorare. A lavorare, perché noi siamo parte della working class moderna, che può lavorare da ovunque. Questo vuol dire che lavorerà anche in vacanza, ma soprattutto che non può prendere troppe ferie. Esatto. Vero. Quindi questo è vero. Ma vogliamo ricordare come condividere con noi i pensieri del nostro parole pubblico. Ma ricordiamo anche chi siamo. Sì, che mi piace sempre. Giusto. Ciao a tutti, questa è Fuori dal Comune e siamo a Radio Zam, siamo a Milano, Milano Sud, e noi siamo Marghe, Fede, Marzi. Yuppi. Qui c'è uno splendido tramonto, il sole bello sta tramontando e sta sui diventando campi da oro sintetici. Sì, raga, venite. Oro. Quanto oro ti darei? Bello. Oro. È la mia canzone del sabato mattina. Che sì. Bello. Cioè. No, scusate, volevo dire che questo posto è stupendo e quindi quando si potrà bisognerà organizzare degli aperitivi, poi come a Riccione per Radio DJ facciamo l'estivo qua. Sì. Certo, tra l'altro penso che si possa anche spoilerare che prima o poi ci sarà una festa della radio a cui sarete invitati tutti. Assolutamente sì. E noi sì vi vorremmo tutti così molto possiamo freschi. Possiamo spoilerare talmente tanto che non sappiamo niente. Neanche quando sarà, esatto, ma credo sarà che sia a fine ci giugno. Sarà. Ma sarà. Dovrebbe esserci, ci esatto. Sarà. Quindi siateci, tenetevi pronti, liberi tutti i weekend di fine giugno, sì, perché succederà. Non partite, non andate al mare, non sfruttate questa zona. Oggi ti inceppi un pochino. Inceppo, ragazzi, non so perché mi sei incartata. Ma forse perché mi mancavate così tanto che ho smesso di parlare nelle ultime due settimane e adesso esco fuori dal mio buco. Incredibilmente, raga, Marghe ogni tanto sta anche zitta. Me inceppo. E si inceppa. E me inceppo. No, comunque stavo dicendo una cosa molto importante, ossia sì, come poterci scrivere, poterci scrivere. Io mi impappino, ma tu non sei italiano. Esatto. Ok. E per poter appunto contribuire con i vostri pensieri alla questa puntata. E quindi le coordinate sono le nostre coordinate. Allora, per mandarci le vostre foto a questo punto di birrette sul balcone, per chi di voi ancora vorrà farsi gli aperitivi in casa e non fuori, infatti. Pensavo per chi di voi è ancora al balcone. Per chi di voi è ancora al balcone in questi tempi duri, e se volete mandarci le vostre foto, i vostri messaggi, i vostri auguri, le vostre dediche, i vostri auguri, soprattutto i vostri auguri, ragazzi. Sì, auguri. Beh, è stato il compleanno di Marzi. È stato il compleanno. Auguri. Tra l'altro, io credo di non averle fatto gli auguri, me ne sono resa conto prima. Non me ne sono resa conto io, ma grazie, Marga. Accetto gli auguri ora. Come se li avessi fatti. Come se fosse. Eravate via, non. Ti sei dimenticata. Perso. Quindi, se volete fare i vostri auguri, non a me, ma a tutti, anche a me. Però insomma, a chi volete le vostre belle cose, allora io vi invito a scriverci alla nostra chat di Telegram at Radio Zam trattino basso CH. Dimenticato tutto, eh? Sì, dimenticato. Niente, tutto, la vacanza, che ma cosa me lo fa? Dimentico sempre, raga. Quindi è oppure Radio Zam trattino basso CH chat, che è un account, non è una pagina, bla bla bla, un canale. Quindi ci scrivete, è solo una conversazione tra internos. Ci potete confidare i segreti, scrivendo segreto, così noi non lo leggiamo. Esatto. Oppure ci trovate su Instagram, uno strumento molto più utile per mandarci le vostre foto, ad esempio. O condividerle taggandoci. E ci trovate come Fuori dal Comune Stava Preso, perché effettivamente stava preso. Comunque, esatto. Raga, ogni volta siete sempre più da jingle perfetto. È vero, cioè, ma infatti arriverà. Mamma mia, raga, troppo radio, veramente troppo, come radio. Si fa seriamente, quasi anche come youtuber. Condividi, iscriviti al gruppo, swipe up. Esatto. Fai su. Va bene, quindi scusate, così. Qual è il tema, quindi, del giorno? Eccoci qua. Allora, oggi parliamo di pane e acqua. O l'essenziale. Perché pane e acqua è un'espressione che potrebbe avere tanti significati, no? Quindi abbiamo detto la punizione, quindi ti mando a vivere a pane e acqua. Oppure decidere di vivere a pane e acqua. Oppure trovarsi nella situazione di... Trovarsi nella situazione di vivere con poco, no? Oppure... Diciamo un aspetto più negativo. Altre cose oggi pane e acqua. Diciamo che è una accezione un po' più negativa, mentre magari l'essenziale si può leggere in una maniera un po' più positiva, no? Sì, esattamente. Cioè, quindi qualcosa di indispensabile, di sostanziale. E quindi oggi noi faremo questo viaggio proprio alle origini dell'essenza e del minimalismo dell'umano, sia nella persona che nella sua mente. Sì, posso introdurre con le parole di Immanuel Kant? Mamma mia! Sì, oggi è così, aspetta, brava. Aspetta che sta entrando. Aspetta. Welcome, Emmanuel. Welcome, Emmanuel. Please come in. Please sit down. Here is the couch. Yeah, okay. E quindi vado a citare. This is my friend Margherita. Meine Freundin. Ah, okay. Brava, perché fa anche un corso di tedesco, comunque, scappalottini. Allora, DM. Esatto. Quindi, aperte virgolette, non siamo ricchi in base a ciò che possediamo, ma in base a ciò che possiamo fare senza possedere nulla. Chiuse virgolette. Non l'ha letto Emmanuel perché si imbarazza, però è qua seduto sul divanetto. Mi ha dato questo là. Emmanuel, do you want a fazzoletto? Why you're crying so much, Imma? Questa gag delle persone famose presenti in radio forse va portata avanti. Fino a quando non avremo qualcuno di veramente famoso in radio. Sarà un po' quella cosa di al lupo, cioè la gente non ci crederà. Sì, forse. Esatto. Finché non sentirà parlare, tipo... il Papa. Tra l'altro, scusate, questo Inception, Pierino mi era il grande capostipite delle barzellette. No, delle barzellette, sì, ma delle punizioni, non veniva sempre punito. Ah, e qui torna pane e acqua, capito? Hai ragione, poi ne parliamo. È vero, circolo. È vero, sì, abbiamo deciso di parlarci un po' di povertà, quindi di scelte, insomma. Allora, non ci aspettiamo una premessa per i nostri nuovi ascoltatori. La solita premessa, ce ne fossero, perché è di dovere. Innanzitutto sono le che si fa sempre radio 20:38. E alle 20:38 su Fuori dal Comune mi sento di dire che ricordiamoci che Fuori dal Comune è un meraviglioso programma radio, un meraviglioso momento in cui tutti i nostri ascoltatori possono imparare sicuramente cose nuove, sì, ma soprattutto possono sfruttare per avere nuovi argomenti di conversazioni più o meno alti con più o meno approfonditi con i loro amici. Sicuramente noi invitiamo tutti i nostri amici ascoltatori e la community di Fuori del Comune a verificare sempre quello che vi diciamo. Verificare. Noi facciamo così, noi vi diamo il là, poi a quel punto siete voi che dovete, come dire, brava. Poi... Cioè, noi siamo un po' quelle persone che iniziano la fake news anche. Sì, però, No, Fede! C'è il rischio. Ma no! Perché noi diciamo sempre di controllare, noi comunque sì, controlliamo più o meno, poi ogni tanto ci scappa. Comunque oggi abbiamo deciso di parlare di questa cosa un po' importante, però la vogliamo sempre affrontare nel nostro modo di fare le cose, cioè insomma, a cazzo dei cani. No, non a cazzo dei cani, la vogliamo affrontare un po' così, in una conversazione tra amici, sì, esatto, senza pipponi. Senza pipponi, non c'è quello che deve per forza saperla più lunga degli altri, cioè una condivisione, uno scambio, esatto, direi alla pari di piccole suggestion sul tema. Esatto, noi non siamo quelli dell'intelligenza collettiva, ma noi siamo quelli dello stare bene insieme collettivo. Siamo la collettiva e basta. Comunque mi una piace collettiva. Questo disclaimer di un quarto d'ora. È importante tipo, il disclaimer. Attenzione, gli ascoltatori avranno attaccato e chiuso, esatto, la pagina. Esatto, come perdere ascoltatori in un quarto d'ora. Fatto. Come perdere ascoltatori in due minuti. Una lezione di Marzia Giudittanelli. Puoi fare un TED Talk. Vabbè, io, come dire, va bene. Vogliamo fare una piccola introduzione del primo tema, sì, intanto che chiamiamo, sì, l'ospite. Sì. Ah, perché abbiamo anche un ospite, esatto, stasera, abbiamo raga. Abbiamo anche importante. Un ospite molto importante che quindi, ci parlerà di una di queste, esatto, sfaccettature. Quindi, esatto, allora volevo parlarvi, cari miei amici, di un paio di cose. Dici, Marzi. Vai, noi siamo qua pronti ad ascoltarvi. Allora, volevo parlarvi, primissimamente parlando di povertà, volevo parlarvi di questo. Allora, la povertà è una cosa più... Il microfono, oddio, dritto. C'è un problema tecnico. Il bello della ridiretta. Della ridiretta. Il microfono dritto. Si è rotto. Hello? Si è rotto. Ecco. Stai okay. Così. Stai okay. Così per tutta la sera. Non ti muovere mai più. Allora, no, come vi dicevo, la povertà a volte è un concetto che magari conosciamo, cioè che... Insomma, che chi ha il privilegio di conoscere tardi nella propria vita conosce magari da bambino, non so, le prime collette, è anche a volte legato alla carità. Spesso, se sei cresciuto in una famiglia, che ne so, cattolica, per esempio, fai delle opere di bene nella parrocchia, così. Se invece sei più sfortunato e la conosci, è una situazione che conosci fin da subito, ovviamente. Non possiamo saperlo come sia crescere, perché noi siamo un po' privilegiati nella nostra umiltà. Umili ma niente, io umili ma privilegiati. Esatto, quest'anno a Milano c'è stato, a Milano e non solo, un po' in tutto il mondo, mi verrebbe da dire, è stato un po' scoperto il vaso di Pandora, nel senso che a un certo punto ci siamo, nel momento di emergenza vero, ci siamo un po' guardati negli occhi e ci siamo resi conto di come le persone che vivono sotto la soglia di povertà, o comunque che non possono garantire ai propri bambini, ai propri figli, di dire conosco la povertà perché aiuto gli altri, ma conosco la povertà purtroppo perché in qualche modo la subisco, sono di più di quelli che pensavamo. Ma dall'altra parte c'è stato, e temo che questa cosa si aggraverà ancora di più quando pare che da fine giugno sblocchino forse luglio mi pare, ma tra poco arriverà lo sblocco dei licenziamenti, capiremo come sarà, ma probabilmente insomma ci sarà un momento di difficoltà. Quindi questo per dirvi che è successa una cosa molto bella in realtà a Milano e in tante città, tantissime città, non solo a Milano, che tante persone si sono messe insieme e hanno iniziato ad aiutare gli altri, cosa che in realtà è sempre stata fatta. Tutte le città in Italia hanno una forte vocazione di volontariato, Milano è una tra queste, però con l'emergenza questo è stato un fenomeno ancora più grosso, che ha coinvolto tantissime persone, per fortuna, e si è un po' scoperto, comunque è stato anche valorizzato, ecco, valorizzato, diciamo, e si è in qualche modo cercato di aiutare l'istituzione lì dove l'istituzione non arriva, perché il welfare italiano è veramente molto basso, e quindi c'è tutta una fascia di persone che non sono coperte, che non sono aiutate, dove arrivano le persone, i volontari. Ok. E questa è una cosa molto bella che è successa quest'anno. Vero. E questo ne parleremo con il nostro ospite, di un'iniziativa in particolare che permette alle persone di non vivere di solo pane e acqua. E niente, era un po' l'intro del tutto. Beh. Poi vi volevo dire anche un'altra cosa. E l'altra cosa è che anche per questa puntata abbiamo un concept musicale. Esatto, infatti mi hai proprio tolto le parole di bocca. Vai. posso, anzi, Fede, direi che puoi introdurlo tu stesso, qual è il concept della nostra playlist di oggi. Allora, come ben sapete, Fuori dal Comune ha sempre un occhio di riguardo alla musica che vi facciamo ascoltare, perché facciamo una profondissima ricerca e una profondissima selezione sia del tema che poi della musica che vi andiamo a proporre. Il tema di oggi è molto difficile da spiegare. Già. Però, perché diciamo, pane e acqua, trovalo tu una traccia che pane acqua, esatto. Oppure l'essenziale, a parte. Anzi, a parte. Se avete altre idee da condividerci. Esatto. No, ma io avrei interpretato in quest'altro modo. Benissimo, benissimo. Ditecelo. Ma noi non siamo per niente permalosi. Assolutamente no. Il concept di questa puntata è, diciamo, andare a scovare quei pezzi che secondo noi rappresentano in maniera appunto essenziale, cioè sono un po' quello di Mengoni, esatto. Sono un po' la rappresentazione più cristallina e limpida di quella che è un artista, nuovo o vecchio che sia. Quindi, il costitutivo dell'essenza. Quindi io ascolto quel pezzo, tu mi dici, ma io non lo conosco, Sfera e Basta. Non lo conosci, ascoltati questo pezzo che capisci cosa fa. Che tra l'altro sarebbe, secondo te? Visierabecco. Io avrei... Perché volevo metterla, però per non avevamo più spazio. Okay. Mi hai trovato pronto. Molto pronto. E quindi come primo pezzo, siamo andati proprio indietro, quando avevamo tipo 13-14 anni, penso, forse 15, qualcuno, forse 12, qualcun altro, e abbiamo scoperto questo pezzo che tra l'altro è tornato da poco un po' in classifica, che è La descrizione di un attimo di Tiro Mancino. La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano, e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare, e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri, e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. Cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni. Come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Un'emozione fortissima, ai ai ai ai, come sempre sei bellissima. Mi hanno detto dei tuoi viaggi, mi hanno detto che stai male, che sei diventata pazza, ma io so che sei normale. Mi chiedi di partire adesso, perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile rincontrarci nei pensieri, distesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo presto, fra almeno altri 5 anni. Ah, come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai, ai, ai, ai. descrizione di un attimo. Vabbè, ma che piangere. Molto bello. Che piangere, bello. Un tuffo nel passato. Sì, un tuffo nel passato, ma anche un tuffo nell'estate. Mi sembra sempre molto di estiva. Però quando un po' piove, eh. Cioè, estate, esatto, però un po' piove. Bravo, estate malincanica. Estate malincanica. Va bene, allora, siamo qua con il nostro ospite della serata. E quindi, ciao Nicola. Ciao Nicola. Ciao. Ciao. Benvenuto. Ciao. Benvenuto nel nostro salotto. Ci piacerebbe ospitarti live, ma ancora non è possibile, ma arriverà quel giorno. E noi siamo qua a Milano Sud su un bellissimo tramonto sui prati. Esatto. Sul tramonto proprio. Esatto. Stiamo navigando. Io vedo, sono anch'io a Milano Sud, scusate, vedo anche la luna, ma ah, wow, però, che sei bello. Più fortunato di noi, allora, sì, forse. Sì. Noi, lune al momento non ne vediamo, però no, magari più tardi ci capiterà, esatto. Benissimo, allora noi abbiamo Nicola con noi perché volevamo raccontare a tutti i nostri ascoltatori di un'iniziativa molto bella che è stata fatta a Milano qualche tempo fa, ormai sarà passato un mese più o meno, un po' di più forse. E... sì, è passato un mese e mezzo. Un mese e mezzo, e che è stata portata avanti dalle Brigate Volontarie per l'Emergenza di Milano, in particolare dalla Brigata Longo. Le brigate si sono, diciamo, sono nate con il lockdown dell'anno scorso, si è messa insieme una rete di mutualismo e quindi di soccorso e aiuto ai propri vicini, al proprio quartiere, molto capillare all'interno della città, e all'inizio di quest'anno è anche nata la brigata speciale Longo, che è la brigata che si occupa di tutte quelle che sono le operazioni speciali, e è venuta quest'anno appunto in occasione della scadenza dei punti fidati, è venuta un'idea di come sfruttare questa occasione per fare del bene, essenzialmente per aiutare ancora di più le famiglie in difficoltà di Milano. Ma Nicola, dice di più. Allora, beh, sì, è un'idea che ovviamente è abbastanza semplice, nel senso che è venuta ad alcuni di noi chiacchierando un pomeriggio mentre stavamo facendo tutt'altro, perché vabbè, ovviamente si va a fare la spesa, c'era questo martellamento da parte di Esselunga sulla questione dei punti in scadenza, e tra alcuni di noi ci siamo detti, beh, ma perché non raccogliamo questi punti all'interno? All'inizio si pensava di creare una carta Fidat di brigata, poi nello specifico si è deciso che così la natura ha deciso che la carta madre sarebbe stata la mia, e quindi questo ha comportato una pioggia di punti sulla Fidat, tra l'altro col terrore che potesse venireci bloccata da Esselunga, cosa che poi ovviamente non è successa, anzi mi è stato detto che Esselunga non la fa questa, cioè non ti blocca la carta se male. Arrivano troppi punti, però noi comunque poi ci siamo impegnati a distribuire i punti su più carte Fidat, anche perché poi ci sarebbe stato utile per andare a fare le spese. E alcuni compagni, alcune compagne anche della Brigata Longo ci hanno chiesto, beh, ma perché non ve la fate portare a domicilio? E io abbiamo risposto, boh, cioè, ci sembrerebbe un pochettino brutto farcela portare a domicilio, e poi anche noi avevamo proprio lo spazio dove farcela portare a domicilio, quindi abbiamo pensato di organizzare delle squadre tutte nell'ultima settimana, tra l'altro, di questa iniziativa. Siamo partiti il mercoledì, scadeva l'11 aprile, che era una domenica, siamo partiti quel mercoledì là e abbiamo iniziato a fare spese a raffica con appunto delle liste della spesa già preparate, vedendo un po' quelle che potevano essere le necessità delle varie brigate che operano sul territorio, dicendo no, beh, ma chiedono il caffè, rifiutano per esempio un altro prodotto, quindi alcuni nostri compagni hanno fatto queste liste, poi abbiamo organizzato le squadre e siamo andati, col problema che mentre noi spendavamo i punti continuavano ad arrivare i punti. Sì, una pioggia, esatto. Una pioggia di punti. Anch'io ho donato i miei punti, tra l'altro. Brava. Mi avete tolto da... Io soffrivo questa, come dicevi tu Nicola prima, che nell'ultimo periodo pre-scadenza punti l'S lunga ti comincia a tartassare, no? E ti sale l'ansia, dici oddio, io poi non sono una che utilizza i punti normalmente, quindi io ho trovato che questa fosse una bellissima maniera per non disperdere i miei punti nel nulla. Sì, io ero presente fisicamente a una di queste spedizioni a fare spese, e c'ero nel momento in cui è stato detto: ah, ma raga, ma ne abbiamo ancora tantissimi di punti, facciamone un'altra, ripartiamo da capo. Alla fine quanto si è raccolto? Quali sono stati i risultati? Allora, i risultati sono stati enormi. Io credo che alla fine si sia arrivati intorno al 1 milione di punti raccolti, quindi 800.000 punti, una roba del genere. In termini monetari, di soldi, sono equivalsi più o meno a 7.500-8.000 euro di spese, cioè una marea veramente di roba. Beh sì, nel senso, ma perché poi alla fine è anche una cosa facile da donare, no? È una cosa fastidiosa che non sai come spendere spesso. Cioè, a volte sì, li puoi usare per fare la spesa, però insomma non costa poi fondamentalmente quasi niente alla persona che dona, per cui ti vengono donati volentieri. È stata un'operazione che si è fatta un po' da sola, diciamo così. È nata così, noi abbiamo semplicemente raccolto la grande adesione, e poi sì, è stato molto faticoso più che altro fare quelle spese raffiche, però è stato anche molto divertente, anche uno dei motivi per i quali abbiamo deciso. Poi abbiamo visto che altre associazioni si sono fatte Infatti volevo dirti questo, cioè se l'iniziativa poi ha preso piede anche nelle altre brigate, che come diceva Marzia comunque si sono abbastanza venute su come funghi in tutta la città, e quindi ho visto che poi di fatto tutte le brigate che sono nate in quest'ultimo anno hanno aderito anche loro a questa stessa iniziativa, facendo anche loro questa raccolta punti, quindi... Cioè, è funzionato, giusto Nicola, che la brigata centrale, quindi la brigata Longo, che è quella che ha coordinato l'iniziativa su Milano, poi ha distribuito quello che ha raccolto alle brigate di quartiere, che a loro volta hanno distribuito alle famiglie, giusto? Sì, la cosa fondamentale poi è esatto, il passaggio adesso, non siamo la brigata centrale, nel senso noi siamo una brigata, poi le altre brigate hanno fatto, alcune brigate hanno fatto la loro raccolta punti, e poi noi a tutte le brigate territoriali di Milano abbiamo distribuito, chiedendo sempre appunto quelle che erano le necessità, sia a livello di nuclei sia a livello di richieste, abbiamo distribuito quello che abbiamo raccolto poi in quella settimana fondamentalmente. Bello, è stata un'iniziativa molto bella, quindi non vediamo l'ora di rifarla, anzi se qualcuno dei nostri ascoltatori sa di altre raccolte punti, dai quei punti. Possiamo fare la COP, l'S lunga, possiamo fare qualsiasi cosa. Le facciamo tutte. Se Nicola si mette a disposizione le sue tessere fedeltà, facciamo tutto. Esatto. Sì, no, io il giorno dopo che è finita questa cosa qua in S lunga, per scherzo, ho scritto nella chat nostra: stanno scadendo i punti del PAM. Hai scatenato l'inferno. Ma sì, no, vabbè, poi in realtà è stato molto stancante, però è anche stato molto divertente. Per fare un po' di spirito di fare le cose insieme è sempre bello. E quando poi le si fa con un fine così nobile come quello di portare del cibo a persone che fanno fatica a comprarlo, è ancora meglio, ecco. Certo, avevo una domanda io, Nicola. Come ti immagini il futuro delle brigate adesso che, diciamo, avete ha avuto una, come dire, un momento quasi, mi verrebbe da dire, sotto i riflettori in una maniera un pochino diversa rispetto a come era prima della pandemia. Ma cioè, secondo te sarà meglio, sarà più difficile? Cioè, come te lo immagini un po' i prossimi passi del breve futuro? Non mi immagino che tu mi dica tra 10 anni faremo questo e quest'altro. Ma io, guarda, credo che ci sia un sacco di voglia di fare un sacco di cose e dei progetti molto belli e soprattutto una direzione molto chiara rispetto a dove si vuole andare e a come ci si vuole arrivare. Chiaramente il momento della pandemia ci auguriamo tutti che possa diventare acqua passata il più in fretta possibile, però quello che rimane, ed è veramente un qualcosa che rimane, è una sorta di, appunto, presidio costante che c'è stato in questi mesi, no? Sui quartieri di Milano, di persone di una certa parte politica, mettiamola così, poi c'è dentro un po' di tutto dentro questa definizione, che però si sono in un certo qual modo riappropriate dei quartieri, come forse, sentendo i più anziani, non succedeva da diversi decenni. E questa è una cosa super preziosa, sì. E secondo me questo è un po' la cosa, diciamo, alla quale tenere di più. Poi su discorsi più ampi, su quale sia esattamente la direzione, probabilmente non sono neanche la persona giusta con cui parlare, ecco. Però da semplice volontario, mettiamola così, vedo che comunque i progetti sono tanti, le idee delle persone sono tantissime e si riesce a volte anche con molta fatica, perché tanti di noi queste cose magari non le hanno mai fatte prima, si riesce però a metterli in piedi questi progetti e a farli diventare qualcosa di anche duraturo. Noi, ad esempio, è da gennaio che come Brigata Longo stiamo andando tutti i venerdì, adesso anche tutti i giovedì, all'ortomercato a raccogliere il fresco per poi distribuirlo, anche quello sempre alle brigate territoriali che ce ne fanno richiesta. Ed è un qualcosa di estremamente semplice, anche non c'è niente di trascendentale nel dire vado all'ortomercato a recuperare il fresco, però è un qualcosa, appunto, a cui stiamo dando una grande continuità e che soprattutto nessuno di noi, credo, nella lunga aveva mai fatto. Quindi secondo me le prospettive sono buone. È ovvio che non dobbiamo rimanere legati a questo periodo qua, nessuno di noi, però è un po' quella cosa che si dice, no, è chiaro che non... Il timore sì è che tutto possa, cioè tanti vogliono che tutto torni come prima, e io invece personalmente faccio parte di quelli che un po' temono che possa tornare tutto come prima. Certo, che comunque torni come prima, ma si porti dietro le cose belle che poi sono nate nel frattempo. Sì, che si evolve. Esatto. Benissimo, grazie mille, grazie Nicola, mille. Grazie per averci raccontato questa iniziativa. Io, che insomma, nel mio piccolo ho dato una mano, è stato molto divertente, non ho mai visto la mia macchina così piena di spesa. Cose, esatto, la mia Lancia Y così piena di cibo, quindi grazie mille. Seguite ai nostri ascoltatori, seguite le brigate sui social, direi, quindi le brigate volontarie per l'emergenza, per tutto quello che riguarda le brigate in generale Milano e la Brigata Longo in particolare, per quello che è le iniziative della Brigata. Nicola, noi ti ringraziamo e grazie, a presto. E io ringrazio voi, buona serata. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Bene, bene. Che bello. No, volevo dire una cosa riguardo questa. Proprio ieri sera, sì, con i miei amici, i regaz, tutte le cose che faccio nella vita, per cui non mi pagano. Ok, Scappodottini all'ascolto. Esatto. Marzia è molto impegnata. Sì. Abbiamo parlato con dei

sì, e si sente ancora meglio. Dovremmo farlo per sempre. Sì, è vero. Ma è successa pienamente a casa perché abbiamo schiacciato pausa. Molto professional, no? Come i veri DJ. Prova a stare zitta. Sale il volume. Se parlo, si abbassa il volume. Bellissimo. Allora sfumala invece di interromperla. No, facciamo così che parlo. No, dai, ma è bello parlare, raga, si fa che si parla sopra e si fa finta di... Esatto, la celebriamo esatto, per un attimo. Finché non, esatto, bravissimi. Va bene. Okay. Nel frattempo è passato un elicottero qua fuori. Ma qua stanno passando delle cose strane, prima una specie di Ferrari è passata, sì, Ferrari! Esatto. Sì, perché vabbè, anche se siamo qua a Milano Sud c'è un campo da calcio dove tutte le mamme, tutti i papà vengono a prendere i loro figli che giocano a calcio con un SUV a testa. Guarda, cioè, io se c'è una cosa che vorrei fare è andare, come dice mia mamma. Non dirlo. Perché? Vorrei andare a, non dire il verbo, che potrebbe essere tipo bucare, staccare, esatto, le dirlo. Ruote, le ps dei SUV, delle MILF, esatto, perfetto, sì, anche, non anche delle MILF, dei SUV in generale. Che siano, ma un giorno parleremo della mobilità a Milano perché è un tema interessante. Good point. Va bene, allora scivoliamo verso il prossimo tema, che è quindi chi sceglie l'essenziale. Sì, passiamo un po' dal sacro al profano. Esatto. Vabbè, no, è sacro anche questo. Dal in giusto fondo. Al faceto. No, è giusto anche questo, insomma. Sì, sì, sì, sì. Ma parliamo di eremitismo. Io inizierei con un breve aneddoto personale. Vai. Che fa ridere. No, okay. Allora, parliamo un attimo quindi. Questo è il momento in cui parliamo degli eremiti, che sono quelle persone che decidono di allontanarsi dalla vita sociale, diciamo, sociale e materiale, quindi, esatto, e di vivere una vita tendenzialmente soli, in solitudine o in contatto con la natura. Andare o nella villa in Costa Smeralda non è eremitismo. No, esatto. No, devi anche diciamo lasciare che, esatto, le tue connessioni materiali. Esatto. Gli eremiti, per diciamo tradizione, sono tendenzialmente religiosi, di varie religioni, sì, ma adesso abbiamo degli eremiti moderni. I digital Prego. Nomad. No, sì, no, il mio raccontino in realtà è proprio una cagata mortale. Però quando ero piccola, mia nonna mi ha fatto credere nell'eremita come se fosse la figura, un po' come se fosse Babbo Natale, il Gesù bambino, quelle robe lì. Cioè, perché ero in vacanza in questo paesino sopra Varigotti, no, in questo paesino ligure un po' arroccato tipo medievale, e nella strada che facevamo per ritornare a casa, in buona sostanza, c'era una piccola grotta che riportava dei segni, no, che sembrava proprio il passaggio di una persona. E mia nonna mi ha convinto per tutto il breve periodo che io ho fatto in questo posto, che ci fosse un eremita e quindi che si nascondesse in questa grotta un eremita. Quindi noi tutti i giorni, tornando dal mare, gli lasciavamo delle piccole cose che poi mia nonna si, come dire, premurava di far sparire, esattamente come si fa con Babbo Natale, i biscotti e il latte. Ma tipo cosa gli faceva? Li lasciavate lì che cosa? Ma a volte delle cose da mangiare, a volte delle cose per sollazzarsi. Quindi non so, tipo il giornale, esatto. Ma in realtà se le fregava tua nonna, cioè le hai fatto il guardaroba. Evidentemente no? Sì. Però mi ha sempre fatto sorridere questa cosa, che per un momento, per un, non so, 7 giorni della mia vita, io ho creduto nell'eremita. E poi ovviamente non c'era. Vabbè, basta, questo era il mio piccolo aneddoto. Una bellissima storia di eremiti. Molto bella, però ti racconterò io questa storia. Prego, prego. Che avrà delle parti in comune con la tua. E sono pronta. Allora, connessioni si chiamerà questa parte. Esatto. Allora, leggevo, e potrete raccontarle ai vostri amici al bar basso, sì, davanti a un bel Negroni. Un gigante. Solo, la mia recommendation è comunque prenderne uno, massimo due, e comunque mangiarvi una pizza poi. Sì. Anche prima. Che perché ti portano due tartine che, sì, cioè, infatti, poi no, muori, no, probabilmente. Però intanto andiamo avanti. Prendete il primo Negroni. Parleremo anche dei Negroni. Esatto, ma sai che l'altro giorno ho visto... allora, praticamente, qualche tempo fa in America, nel Maine, è successa questa cosa. Una storia in realtà che adesso racconterò come sempre in maniera un po' superficiale, ma è una storia molto bella che invito tutti i nostri amici ad approfondire. Allora, hanno praticamente in un villaggetto lì del Maine, a un certo punto hanno iniziato a notare che più e più case venivano tipo... cioè c'era un ladro che entrava nelle case, okay, essenzialmente, e rubava solo robe da mangiare, uh-huh, o a volte, uh-huh, dei libri, a volte scassinava un po', insomma, avevano notato che c'erano queste incursioni nelle case di notte in cui il ladro non si prendeva niente di valore, ma solo cibo e libri. Ok. E beh, cerca che ti ricerca, chi sarà, chi sarà, chi sarà, tutte le sciure del bar, investigatori, parla, chi sarà. A un certo punto un tizio mette la telecamera, ah, vabbè, e beccano il signor Knight. Il signor Knight, mm-hmm, chi era? Non era altro che l'ultimo eremita rimasto. Oh. No, allora, l'articolo lo presentava così. Ora magari ce ne saranno altri, però è un, era effettivamente un eremita. Questo era tipo il 2014-2015. Lui era eremita, effettivamente. Quindi viveva nel bosco vicino a questo paesello dal l'88. Alla faccia. Dall'88 faccia. Viveva nel suo bosco. Ha sempre vissuto per tutti questi anni. Ha iniziato a vivere lì quando aveva 20 anni, in una tenda, e per scelta, non aveva nessun problema, per scelta ha deciso di allontanarsi da tutto. Non ha mai veramente raccontato a nessuno perché. E lui per tutto questo tempo, quindi per praticamente 25 anni, non ha mai parlato con nessuno. Eh sì, perché poi quello è il fatto. Mia nonna mi diceva sempre: no, non possiamo rimanere qui perché l'eremita non vuole entrare in contatto con voi. È molto contento, esatto, che voi gli lasciate le cose, però non possiamo stare qua. Uguale il signor Knight. Il signor Knight ha iniziato a dire: ha detto che nel primo periodo si procacciava cibo da solo, tipo frutta e verdura, così. E poi ha iniziato a pensare che, questo l'ha raccontato dopo, quando era iniziato a parlare. Quando era iniziato a parlare, perché le merde l'hanno arrestato e messo in una galera per 3 mesi e lì, vabbè, e quindi dopodiché ha iniziato a dire: no, vabbè, non voglio morire, uno, e poi non voglio nutrirmi di sole bacche, e quindi ha iniziato a rubare essenzialmente nelle case dove riusciva a trovare, insomma, così. Ma rubava solo cibo o appunto libri, qualcosa per intrattenersi. Ogni tanto ha detto che ha rubato tipo delle cuffie, una radio, robe di questo tipo. Uh-huh. E la sua prima mission da eremita è stata diventare grasso, ma non ci è veramente riuscito, perché diventando grasso avrebbe potuto in qualche modo autosostenersi. Esatto. Bello. E il signor Knight, in realtà, ha una storia abbastanza triste, perché poi lo... faceva molto ridere il fatto che uno si isoli e decida di mangiare bacche con l'obiettivo di diventare grasso. No, che mi sembra... no, perché poi ha iniziato a entrare signor nella vita delle persone. Vabbè, notte. era un po' un Robin Hood per se stesso. Esatto. In fondo. Poi però l'hanno arrestato e, poverino, non sappiamo adesso che fine ha fatto il signor Knight, ma in galera era veramente triste, è stato Poor un momento Knight. Orrendo, perché poi l'hanno chiamato pazzo, ma lui era solo una scelta di vita. Cioè, considerando poi come funziona il sistema penitenziari negli Stati Uniti, è probabile che sia ancora dentro, che sia condannato a morte probabilmente questa persona. Speriamo di no, ma vi invito a esplorare la sua storia, che è il signor Knight del Maine. Il signor Knight del Maine è un articolo molto bello, ve lo consiglio. E il signor Knight del Maine, Marg, sarebbe stato molto felice di averti, sì, come sua nipotina, sì, adottiva, sì, anche perché non sarebbe, sì, andato in galera. Esatto. No, esatto, poi non avrei, rigorosamente non l'avrei neanche incrociato. Esatto. Avrei... più Marghe, meno sbirri, mi sarebbe dire. Stato molto rispettoso della sua scelta. Sì, infatti. Parliamo di un nostro eremita, esatto, locale. Infatti stavo dicendo, leggo qua che forse però ne abbiamo uno anche noi. Cioè, va bene il Maine. Sì, ma... è una storia un po' diversa, mm-hmm. E forse se faremo un giorno la puntata sulle isole, che sarebbe molto bella fare. Bella, sì, anche perché qua abbiamo un isolano. Esatto. Pezzo? Che se era un pezzo. Pezzo? No, allora scusa, dobbiamo spiegare l'inside joke, perché sennò non va bene escludere gli ascoltatori. Hai ragione, l'avrei approfondito però poi nella puntata, ma possiamo dare un biscotto. Noi chiamiamo Fede l'isolano perché lui perché prende... sono della Sicilia. No caro, prende i suoi sentimenti e li isola, e quindi lo chiamiamo l'isolano. Esatto, tipo come si chiamava quel film... Cazzo, c'era quel film con Hugh Grant che era proprio definito la mia isola. Era About a Boy. About forse. Boy. About a Boy. Esatto. E vabbè, sei il nostro Hugh Grant. Ne parleremo nella un'altra puntata sulle isole. Nella puntata sulle isole riparleremo anche il signor Mauro. Esatto. Il signor Mauro, che vi invito anche a seguire su Instagram, probabilmente l'avete un po' incrociato. Il signor Mauro è... Chiocciolina Mauro da Budelli. Esatto, Mauro da Budelli. Mauro da Budelli un giorno parte per la Polinese sul catamarano e si ferma a Budelli. Boh, non si è capito cosa è successo, però. No, si è fermato lì perché voleva lavorare, essenzialmente. Voleva lavorare prima di partire, okay. Quindi ha iniziato questo viaggio con i suoi amici, sono fermati là e a lui gli è piaciuta. Casualmente, quando è arrivato il guardiano dell'isola, andava in pensione, andava via. E lui dopo 36 anni ancora là, slash l'hanno appena sfrattato. Unico abitante dell'isola, guardiano dell'isola. Con un po' di gatti. Con un po' di gatti, lui è ancora lì, anche se adesso appunto lo vogliono sfruttare. Però lui ha fatto 32 anni sull'isola di Budelli, da solo. Che d'estate ci va la gente un po'. Sì. Ah, ok, tipo, no, questo no, è il tema. Cioè d'estate magari ci sono le gite organizzate. Sono le gite, dalla Maddalena prendi la quelle robe lì che quelle robe lì proprio orrende, che arriva la barca piena di turisti, pieni di crema, forse, che scivolano. Sì. Mauro chiacchierò un po' con loro. E quindi adesso però a quanto pare se ne deve andare, ha scelto, forse se ne deve andare. Mauro. L'hanno sfrattato, lui vorrebbe rimanere nella sua isola, ma purtroppo l'hanno sfrattato, quindi insomma sosteniamo il povero Mauro da Budelli, seguiamolo su Instagram. Esatto. Ma posso dire che tutto il mondo ce l'ha contro gli eremiti? Ma poverini! E perché li vogliono obbligare a stare nella società? Ma se loro stanno bene così, stanno bene così. Sì. Comunque un po' di tempo fa ho rivisto Into the Wild, e anche lui a proposito era di un eremita, sì, no? Sì, anche per lui scelta. Sì, cosa ne pensiamo di quel film? Perché ci sono ho sempre avuto delle recensioni contrastanti tra le persone che ho incontrato. Secondo me è il film dei millennials per eccellenza. Secondo me, a parte che noi europei lo possiamo capire un pochino meno, cioè la pressione tipo del debito scolastico, queste cose è vero. Però secondo me è un film immediato. È un film ok, cioè non è un film né una cagata. Sì, però esatto, ma neanche l'esaltazione massima della cinematografia. Iconic, un po' hipster e via. Sì. Invece sempre sotto questo filone e anche con un po' di reference, secondo me ha vinto l'Oscar Nomadland, che alla fine una vita non tanto da eremita, devo dire, perché Nomadland loro stanno sempre in comunità, sono questa gente che lascia tutto per vivere in un van essenzialmente o in un camper, e loro non vogliono stare da soli, vogliono stare con poco, vogliono muoversi, sono dei nomadi essenzialmente. Beh, no? Sì, un film molto bello, poco con questa un po' strizza lungo da vedere al cinema. A Fede non è piaciuto comunque. No, non è vero, è un po' lungo. Strizza un po' l'occhiolino Into the Wild con queste immagini della natura, perché alla fine, esatto, lo aiuta, le pietre, il Nevada. Però non è da sola, la zia. È un po' da sola, un po' con altre persone che decidono di fare un po' la... Domanda, ma facciamo finta che a un certo punto vi svegliate con enorme voglia di essere eremiti. Dove? Perché secondo me, cazzo, essere eremita in montagna è un affare, essere eremita in campagna è un altro affare, isola una cosa ancora. Questa è una bellissima domanda che farò nei miei prossimi date che arriveranno dopo questa puntata. Ok. Oh, yes. Allora, dove vorrei fare l'eremita? Io penso... Tu ce l'hai? Sì, io penso comunque ambiente marino, ma perché nella mia vita... preferisco comunque il mare alla montagna, ti dico questo, e poi mi sembra un pochino più accomodante rispetto al bosco, che mi fa un po' paura a dirla tutta. Quindi tu preferisci tipo Zanzare, spiaggia salsire. Deserta e sì, o tipo luogo tipo remoto Castaway con, io tipo Castaway. Mauro. Tu? Io in un posto che ci sia un McDonald's vicino. Beh, così no, però non va bene. E non va no, bene. No, poi faccio come Knight. Vado e rubi il Mac. E poi torno nel bosco. Che sia mare o che sia montagna, no. È difficile da dire, però in un posto non troppo c'è anche limitrofo alla città, non per forza devi... Non troppo inospitale. Tipo l'amico mio eremita stava in una grotticina, in un bellissimo paesino di medievale Ligure. Sì, anche io forse sceglierei la strada del tuo amico. Ok. Cioè, nel senso, da una parte un po' mi ci vedo in collina. Ok. Cioè, mi ci vedo in questi paesaggi un po'... papaveri. Sì, un po'... non in campagna, un po' collinetta, un po'... Birkenstock e cappellone. E come si dice, spiga di grano che esce nell'angolo della bocca. Sì, comunque molto, non so, un po'... bucolica. Bucolica. Un po' boccaccio, che alla fine anche loro... È vero. Miti. Vabbè, raga, andiamo. Però dall'altra parte mi piace un po' il mare. Ti piace un po' il mare. L'acqua. Avevamo un sacco di altri esempi di eremiti, ma non ve li raccontiamo. Ma forse non ve ne era fare una puntata sugli eremiti. Solo sull'eremita. Vabbè, dai, pezzo, via. Vi lasciamo con l'ultima festa. Ammazza, di ma che pezzo! Cosmo. Soprattutto, raga, quanto siamo controcorrenti che non lo mettiamo per ultimo. Yeah! No, lo mettiamo come terzo. Beh, perché ci fa schifo. Il titolo è L'ultima festa. Esatto. Suona Cosmo. Thank you. Bella serata, bella serata, bei tempi quelli in cui si andava a ballare Cosmo ai suoi concerti, quando è uscito questo disco erano tutti sì, questo disco erano tutti molto in hype per Cosmo e da là è un po' cresciuto l'hype per Cosmo che tuttora fino a scoppiare. Esatto. Tuttora c'è, ma stavo appunto commentando, è uscito l'album nuovo l'altro weekend. Non mi ricordo neanche più come si chiama. La terza estate. Stavamo commentando che era un po' d'amore, credo. Sì, forse. C'è il sottotitolo. No, la cosa bella che ho visto Rece? Che ha fatto Cosmo. Rece in un tweet in rima. Questo Cosmo ha voluto mettere dentro tutto il suo Cosmo e ha un po' difficile. E ha un po' rotto il Cosmo. È fatto sempre rima Cosmo. Con Cosmo. Sì. Io la immaginavo più poesia, ma mi piace la tua interpretazione rap. Fede? La terza estate dell'amore. La terza estate dell'amore non ha fatto un gran clamore. Bella. Sembra un disco complicato. Forse Cosmo si è drogato. Bella abbiamo sta roba un talento delle... tra di noi ma eh? Soprattutto bella sta roba delle recensioni in rima. La aggiungeremo come nuova rubrica. Siete tutti d'accordo? Se non siete d'accordo scriveteci su Telegram a chiocciolina Radio Zam _ CHAT oppure sul nostro canale Instagram Fuori dal Comune Stava Preso. Cos'è che era quella cosa? Sei tutti d'accordo? D'accordo. La sigla di Solletico? Solletico. Era... Caro maestro. Vabbè. Va bene, siamo... manca la Rece di Marzi. Anche io? Io sono conduttrice. Ma guarda come lancia, come si dice? Lancia il sasso. Va bene, allora non la farai... Ma verrai scelta come prima nella prossima puntata. Va bene. Va bene, allora abbiamo parlato di chi sceglie di autoisolarsi, lo fa per scelta. Adesso parliamo un po' da quelli che in qualche modo mi passano dalle famose stelle alle maleaugurate stalle. A chi ha pane d'acqua, a pane e acqua si ritrova un po' a vivere e prima invece erano scampi crudi e champagne. E cotillon. Come si dice? No, com'è che era? No, quella è Ricchi premi cotillon. Quella roba lì. Vabbè, però possiamo mettere anche anche il cotillon, champagne. Che comunque non è il cotechino. Esatto. Vabbè, però. La mimosa li bevevano, in mimosa. Sì. Mamma mia, si sbronzava di mimosa fortissimo. Esatto. E invece poi basta. Esatto. Solo birra. Esatto. Io, tra l'altro, su questo tema, dalle stelle alle stalle, ho trovato questo articolo molto serio. Questo dato, che è il seguente. L'87% dei, aperti virgolette, fortunati vincitori della lotteria, chiuse virgolette, ritorna povero entro 24 mesi. Due anni? Sì, perché praticamente i baciati della fortuna diventano più poveri di prima in meno 2 anni dalla vincita. Il premio Nobel per l'economia, Richard Thaler, si dirà così? Sì. Ha studiato questo concetto per cui la propensione al rischio cambia completamente quando la fonte del tuo denaro, cioè dipendendo dalla fonte del denaro, quindi nel momento in cui tu hai ottenuto denaro dalla fortuna, quindi sostanzialmente senza fatica, è come se in qualche modo il tuo cervello questa cosa non la percepisca come un rischio, cioè a quel punto la perdita di denaro va un po' in secondo piano, cioè mentre quando tu fai, non so, con fatica, fai il tuo gruzzoletto, quindi sei sempre lì un po' attento al rischio, eccetera, eccetera. In qualche modo ti siedi, sbraghi, ma a quel punto sbraghi malissimo. Certo. E quindi tutto quello che hai vinto in sostanzialmente 2 anni lo perdi, ma vai ancora peggio. Sì, parla in realtà di lotteria X, quindi non è magari che parla dell'Enalotto che vince 90 miliardi. La lotteria. Anche che bisognerebbe, mi piace questo argomento, bisognerebbe... Non ti sentiamo più. Bisognerebbe fare un double check con gli italiani che sono grandi risparmiatori. Il risparmiatore. Noi siamo i risparmiatori per eccellenza e mi viene anche da dire che grande Richard Thaler, non ci voleva un genio per capire questa cosa qua, però se ha vinto il premio Nobel, raga. Sì, sì, però diciamo che ha tirato fuori un concetto. Sì, sinceramente non l'avrei pensato perché soprattutto se ci immaginiamo il Superenalotto, alla fine tu veramente cioè è una domanda che ti fai spesso. Cioè dici, se avessi, se dovessi vincere, sì, no? Sì, sì. Io no. No, la, io, se dovessi, cioè, vincere 2 milioni di euro oggi, che cosa faresti? Cosa ne faresti? Ma tra l'altro l'altro giorno, perché proprio domenica abbiamo parlato di questa cosa, e da qui ho scoperto questo piccolo concetto, diciamo, e sono uscite due domande. La prima è che cosa faresti con quell'enorme montagna di soldi, e va bene. L'altra cosa che ci siamo chiesti è la tua prima reazione. Che cosa fai? Tu? Io... non lo dico a nessuno. Infatti, questa è la prima cosa proprio l'italiano fa, perché ha paura. Io, perché non lo si dice? Perché si ha paura che ti rubino in casa. No, poi, no, beh, a parte non è che ti mandano tipo i soldi e te li metti da parte, però che appaiano parenti, arrivi. Cioè, i parenti, raga, serpenti. Parenti serpenti, non tanti parenti, però cioè, immaginati che tutti quanti sanno che c'è un botto di soldi, cioè, ma pure viene difficile, pure non so, arriva la famiglia che deve fare un'operazione al figlio. E ti chiede, tu cosa gli dici di no? No, certo. Quindi tu no, non lo dire a nessuno. Poi, no, non lo dico a nessuno. Poi. Prendo una crociera. Ostia. Con sopra tutti i miei amici. Yeah! E facciamo tipo 20 giorni tutto pagato. Però ti paghi anche lo stipendio. Tutto. Non dovete pensarci niente. Beh, raga, se vinco 84 milioni, 90 milioni, cioè chi se ne pensa se vinci il turista per sempre. E poi la cosa che farei sarebbe investire tutti i soldi. Ma tra l'altro ho scoperto che da poco, come si chiama, l'Ottomatica, perché penso siano loro, hanno fatto questo nuovo gratta e vinci, sì, insomma, non... tipo turista per sempre, ma per le case. Quindi quello che tu vinci lo puoi investire soltanto nell'acquisto di case, che adesso bellissimo. Francamente non mi ricordo, però andate assolutamente a googolare. Ma è il gratta e vinci della casa. Inquilini per sempre si chiama. Tipo inquilini per sempre. Sì, in effetti io farei esattamente questo. Io probabilmente, ovviamente, oltre a donare i miei soldi di beneficenza e diventare la filantropa più famosa di Milano, scapolini e scapolottini di tutta Italia, e investire in politici poveri, come piace a Marzo, come piace a me, esatto, fare. E probabilmente comprerei case. Però con questo gratta e vinci puoi fare solo quello, capito? È molto focus. Non posso regalarle ai poveri. Credo di no. Ok, va bene. No, però anche investirli in banca. Cioè tu immagini, tipo metti lì 5 milioni senza fare niente, solo con gli interessi. Tu fai ogni anno magari che fosse, non so, il 3%, il 5%. Ma spendili due l'isola. Mi ritengo cioè lo foraggio. Ti costruisci un'isola tutta intorno. Me la compro e ci vado da solo senza di voi. E a chi non è andata bene, Marghe? Invece chi questa roba... Beh, abbiamo un sacco di storie di crack, sì, vari. Sì. Cioè, forse il più famoso in Italia c'era il mitico per modo di dire, che tra l'altro mi verrebbe anche da dire una cosa, non credo che lui sia finito a fare pane e acqua, si è fatto un po' di carcere, ma come magari spesso in carcere succede, un po' di pane e acqua. Come spesso succede, però... il carissimo, antipaticissimo Callisto Tanzi, quando è stato il crack Parmalat, era praticamente, ne parlavano tutti quanti, ne eravamo abbastanza piccoli, ma neanche così piccoli. Mi ricordo. Erano le famose Cayman, da lì che è nata tutto il casino, lo scandalo. C'è stato Tanzi, c'è stato, beh, noi siamo tipo mega famosi con anche con Mani Pulite, queste robe qua, di grandi sotterramendi. Sì, in Italia siamo dei campioncini, c'era anche Cirio, aveva fatto mega crack e tutto quanto, quindi siamo ben come dire, sul pezzo, forniti di storie di gente siamo che appunto pezzo, aveva un pacco di soldi. Ma anche se penso alla storia di Johnny Depp, che c'era il momento in cui appunto è andato un po' di matto, il momento della separazione dalla ma Amber. Rinfrescami la memoria. Che lui praticamente pare, cioè a un certo punto qualche anno fa, il contabile privato di Johnny Depp ha detto: sai che c'è, mo racconto tutti quanti come hai sperperato i tuoi soldi nella tua vita, ma faceva delle robe assurde, però cioè nel senso abbiasimarlo, nel senso, cioè nel senso, sì, ce n'aveva una valanga, lui non so tipo, ma lui sperperava fino a diventare poi in quella situazione lì che tutti quanti dicevano: ah, forse Johnny Depp ha finito i soldi. Ma per dire, anche ha schesciato Johnny anche Depp, anche 50 Cent, raga, a un certo punto è andato in bancarotta. Vabbè, un po' ti viene da schesciare comunque. Ma invece sapete chi se l'è presa proprio nel culo? La Concita De Gregorio, avete presente? Zio, nostra, certo, amica, sì, giornalista, sì, intellettuale, amica. Esponente dell'intellettualità di un filone, sinistra, sì, donna italiana, bla bla bla. A un certo punto, qualche anno fa, è diventata presidente, o comunque sì, presidente, direttrice, mi pare. Uh-huh. O non so, redattrice capo. Vediamo, ma guardiamo, intanto io dell'Unità. Sì. E quindi la eleggono, bla bla bla, e quando l'Unità va in fallimento, intanto che lei aveva appena preso la carica, e quando succede questo, chi poi ne fa le spese è il caporedattore. Certo. Ecco, è il direttore, in questo caso era lei. Le hanno pignorato anche la casa, raga. Certo. Perché l'Unità è fallita. Merda. Sì, brutto, sì. Eh? Bruttino. Cosa sì. Che non è successo al carissimo proprietario di WeWork. Vi sarà capitato no. di vedere... In realtà appunto, sai che no? Praticamente, long story short, WeWork è una startup, nasce come startup, mm-hmm. Poi è diventata un bancomat praticamente, che praticamente si occupava della creazione di, di co-working, esatto, leggo, co-working, uffici in tutto il mondo, co-working, ma in tutto il mondo, raga, cioè, avevano sì, diventato sì, una network gigantesca. La loro cosa che li rendeva così diversi dagli altri era che facevano molta community al loro interno, uh-huh. E soprattutto che erano posti fighissimi. Super fighi, dove andare a lavorare, bellissimo, caffè, gente, io che penso. Tutto design. Molto New Yorker. Ma veramente erano arrivati dappertutto. Mega no? Cool. Mega sta cool. Di fatto che loro crescono, un sacco di soldi, grande, lui, Yuhu. Imprenditore dell'anno, si preparano per essere quotati in borsa. Sì. Prima di quotarsi in borsa, giustamente qualcuno inizia a scavare un pochino nei libri contabili di WeWork, quindi va là nell'ufficetto, apre la chiave, ti dice, ma aspetta, ma qua com'è che non tornano i conti? E a quanto pare oltre vabbè a una gestione abbastanza scellerata e abbastanza piratesca di tutta quanta la cosa, i conti risultano gonfiati, ma okay. Soprattutto la gestione di questo proprietario, che tesoretto. Al momento non mi ricordo, Newman. Tra l'altro Newman, tutto un belloccio, un buono, fidanzato con la cugina di Gwyneth Paltrow. Tutto uno okay. Che veniva invitato alle feste del jet set, sarà per dell'anno. Viene fuori vabbè, che lui, oltre ad essere aver gestito la cosa in una maniera folle, cioè tipo prestava soldi della società a amici che avevano startup, ma startup finte. No, sto male. E quindi che soldi che giravano, ed effettivamente il valore, ovviamente, fatta questa cosa qua, si è sgonfiato. Beh, e WeWork non è riuscito a quotarsi in borsa, per fortuna. Chissà Newman a questo punto dov'è nel mondo. E soprattutto SoftBank, la banca cinese che c'era dietro, se l'è presa anche altresì. Ma loro hanno provato a salvarla poi, perché hanno ributtato dentro un sacco di capitale tentando di salvarla. Adesso WeWork si dice che si stia preparando per riquotarsi in borsa nei prossimi anni. Sì, perché comunque non hanno chiusa anche a Milano. Proprio in realtà credo in concomitanza di questo episodio, a Milano dovevano aprirne tre. Credo che li abbiano aperte almeno due. Ah, forse beh, sì. Uno è in Duomo e l'altro è in Piazza della Vetra, lì dietro. Ah, è vero. E poi vabbè, è successo questo, ma soprattutto immagino che col Covid in realtà questi posti qua abbiano un po' sofferto. Ma tra l'altro leggo che, praticamente secondo le indiscrezioni ha cominciato ad assumere pratiche poco etiche. E facevano queste feste costosissime praticando di voler portare le buone vibrazioni al pianeta, e leggo, ma limitandosi solo a praticare yoga. Le buone vibrazioni partono da lì. Esatto. E mentre lei, la cara Paltrow, la Rebecca, continuava a concedersi lussuosi acquisti milionari in immobili. Carina la Rebi, che è la cugina di Gwyneth. Chissà che vita faranno. Rebi, se ci stai ascoltando, mandaci un selfie della tua serata. Esatto, dove sei sì, tu e anche momento. Ti diamo l'IBAN, mandaci anche un bonifico se ti capita. Sì che dobbiamo comprare il microfono nuovo a Marzia. Esatto. Va bene, vai. Pezzo. Questo è un pezzone artista... che mi piace un botto. Sì, artista che ci piace. Ci piace. Molto pop. E vi lasciamo con Royals di Lord. O Lordi. Lordi forse, sai? Secondo me è Lord. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. No, ragazzi, ci eravamo distratti. Ci siamo distratti di brutto. Forse è la prima volta che ci capita una cosa del genere. Però era finito da pochissimi decimi di secondo, sì, il pezzo. Siamo stati... Stavamo bene. Commentando esatto, la lineup del Primavera. Che era una delle, esatto, di una delle altre notizie della settimana. Che vi racconteremo dopo. Che vi racconteremo. Sì. Va bene. Sì, perché dicevamo della nostra amica Lordi che o Lord che ci andrà. La nostra amica Lordi che è australiana Quando è uscito questo pezzo aveva 16 anni, sì, e mezzo. Ma mi piace veramente tanto. Potentissima lei. Molto molto. Poi è un po' sparita però, no? Sì, ma lei fa un po' queste cose qua. Fa delle robe due spot. Album e viene fuori sì, viene fuori no, però veramente brava, veramente sì, potente. Sì, sì, brava. Vogliamo più loro. Va bene, arriviamo, quindi abbiamo visto quelli che scelgono di stare da soli, abbiamo visto quelli che sbancano, ma poi abbiamo sentito storie di pane, acqua e aiuto. E invece adesso abbiamo entriamo un po' nell'essenziale. Sì, esatto. Come che era? Raccontano gli eroi. Raccontano gli dèi. Esatto, che chiodo. Madonna santa, davvero. Vabbè, allora, sì, che cosa? Oh, ragazzi, stasera vi stiamo dando una serie di spunti. Madonna, ragazzi, per le vostre conversation, date. Andiamo come dei voi tuoni, pensavate che era meglio stare fuori a versi le birrette, come probabilmente avrete fatto, ma. Ma quanto content vi diamo? Porca valanghe merda. Di content. Sulle mani per il content. Il momento del content gratis. Solo per gli ascoltatori di Fuori dal Comune. E ok, quindi, cioè, nel senso, essenziale a me è subito venuto in mente minimal. cioè l'essenziale minimal, quindi Giappone. Tra minimal, discoteca nota in cui tutti noi siamo di andati, periferia. Di periferia, sì, sì, in cui sì, noi siamo andati. Gallarate, a Cardanal Campo. Cardanal Campo, certo, cioè, che limoni al minimal. Sì. No. Mercoledì sera del minimal. Mercoledì sera la discoteca. No, non lo conosco il mercoledì, no, sera. No, neanch'io. Raga, ma ah, perché lei era più vicina, forse. Ah, forse era quello. No, io l'ho sempre odiato comunque il minimal. Mi faceva veramente schifo in tutto e per tutto. Sono Vabbè. Comunque, a proposito di questo, scusate l'off topic, però in effetti già che ci siamo, indagheremo e un giorno faremo una puntata sulle discoteche dei Bello, clienti. Sì. Ma stanno cercando di capire cosa fare con il karma. Ah, è vero. Perché è vuoto ormai da 3-4 anni, cioè. E nessuno ci aggiudica il bando. Ci hanno fatto anche una festa dell'unità. A proposito. Prendiamolo noi, facciamoci qualcosa noi, ragazzi. Sì, svoltiamo le nostre vite. Credo che la gestione sia un filo costosa. E credo che abbia un filo di debiti. Ma noi abbiamo un sacco di amici che ci donano dei soldi. O dei punti S lunga. Esatto. Ma anche il cocoricò, ho letto. Ah sì, no, ma il cocoricò però riapre teoricamente. Sì. Cioè avrà una nuova gestione, sì. Però ritornerà a essere il cocoricò. Ma la piramide rimane? La piramide rimane. Io, sì. Raga, io ci sono andata a cocoricò. Tra l'altro suonava... Oddio, come si chiamava quello? Ricci Otto. No. Con un po' asiatico. Ce l'ho, Steve Aoki. Bravi, esatto. Un po' asiatico, giapponese. Esatto. Vabbè, scusatemi. Comunque lui. E devo dire che al netto di tamarroni che mi sudavano addosso. Ecco, questa roba. Io mi ricordo tre cose del cocoricò. Poi chiudiamo la parentesi. Uno, schiene sudate che mi si appiccicavano addosso. Due, il bagno dei trans con tanto di DJ set dentro. Tre, il sorgere del sole sulla grande piramide centrale. Certo, questo ce lo ricordiamo tutti. Chiunque è stato al cocco non può che si ricorda. Anche io devo dire che è il mio ricordo principale. Simile, simile. Ma avevi anche le schiene sudate e i DJ? Il DJ trans in bagno? No, schiene sudate. Beh, ovviamente. Vabbè, ovvio, ovviamente, certo, sì, certo. Vabbè, tornando all'essenziale, io la prima io la prima cosa che ho pensato, appunto, minimalismo, Giappone, Marie Kondo che ci ha rotto i coglioni per un bel periodo, no? Sì, esatto, c'è stato tutto questo trend, soprattutto l'anno scorso, di decluttering, butta via, tieni solo quello l'essenziale, esatto. Qua tra l'altro c'è botto di soldi. Esatto, c'è chi ci ha fatto, oltre a Marie Kondo, cioè abbiamo anche un influencer in Italia che si chiama Rockin' Fioc, che si è inventata un cazzo di lavoro su sta sì, roba. Sì, però lì è diverso, perché lei, la Rockin' Fioc, Giulia Torelli, lei fa sistema gli armadi. Beh, però quindi è più organizer. Però arriva da quella roba lì, perché lei quando ti arriva a sistemare l'armadio ti fa violenza psicologica, ti butta tutto quello che non... cioè fa decluttering, vero, di tutte le cose che non ti servono più e... A me fa essenzialmente anche a me rompe un po' il cazzo. Non so, ma, ma devo dire che mi rompe un po' il cazzo perché io sono accumulatrice. No, ma anche in realtà io capisco la buona, come dire, il buon cioè diciamo la buona intenzione che c'è dietro queste maniere, mettiamola così, perché mi rendo conto che anch'io accumulo, ho dei vestiti che non metto mai, queste robe qui, quelle non lo metti mai, mettilo su Vinted, quella roba lì, ok, ce l'ho, però c'è stato proprio un periodo di tartassamento mortale su sta roba, secondo me forse nel 2019. Raga, a me Marie Kondo è la persona che sta più antipatica al mondo, vedi, solo dopo, cioè un gradino prima, un gradino sopra, quindi è la seconda che odio di più al mondo, dopo Frank Matano. E ti sta sul cazzo perché quando perché? Fa hold your things and if it doesn't spark joy then let it go, io la odio, cioè la odio proprio fortissimo. Forse voglio una puntata di Musco Selvaggio con Marie Kondo e Frank Matano, ma perché solo deve per venire fede qua e fare e rompermi i coglioni? Ma no, ma raga, ma io e la mia isola, ma chi se ne frega di Marie Kondo? No, cioè, non Marie Kondo no sparks joy. No, no, è proprio fastidio. Sì. Poi con tutto quel suo... Inquietante. Vabbè, la zia. Sì, molto inquietante la zia, però è un trend, cioè, molto... Se volete farlo, fatelo, ma raga, ma basta Marie Kondo. È vero. Sapete che abbiamo sempre i nostri momenti, ma basta. Ma basta. Hai fatto il cazzo. Esatto. Vabbè. Vai. No, un'altra cosa che volevo raccontarvi è, ok, va bene, no, Marie Kondo, bla bla bla, ma what if tu a un certo punto vuoi mollare tutto, vendere tutto quello che hai. Dai. Tutto, e partire, farti il giro del mondo. Ce l'ho? Vuoi. Ok. Allora, Abbiamo trovato una guida. Quindi ci sono 5 step facilissimi da seguire. Step numero 1. Step numero 1, assolutamente distaccarsi dalle cose materiali. Via. Quindi la maglietta è una maglietta non, ma questa è la maglietta del concerto, ma questa è, ma con questa ci sono andato, ma qua Amore, i ricordi sono dentro di te, non nelle cose che ti circondano. If it doesn't spark joy, let it go. Ma no, anche se sparks joy. No, qui è proprio if it sparks joy, sell it. Esatto, bravo, bravo. Step numero 2. Step numero 2 dei nostri amici, sell early, sell often. Quindi cosa vuol dire? Inizia a programmarlo dall'inizio, vendi da subito tutto e vendilo spesso, cioè mettiti proprio di duro costantemente e inizia a vendere roba. Step numero 3. Step numero 3, perché poi ci devi fare dei soldi su queste cose, perché vuoi vendere tutto non per beneficenza e andare a fare l'eremita, ma vuoi viaggiare per il mondo, quindi ti serve il budget. Quindi a un certo punto devi iniziare a capire quanto possono valere le tue cose e venderle per il prezzo più alto che ci puoi fare. Ammazza, ok. Price it properly. Step numero 4. Step numero 4. Properly. Properly. Ovunque. Cosa? Sfrutta tutti i canali. Tutti i canali che hai. Ovunque. Digital, porta a porta, mercatini dell'usato di Ballarò. Qualsiasi cosa ti venga in mente. Qualsiasi cosa. Passa, esatto. Whatever.com. Sì, un po' di parla. Vendi. Esatto. Step numero 5, che forse è il mio preferito. Dai. Credici. È facile. Questi ragazzi qua l'avevano già fatto due volte quando hanno scritto questo articolo, quindi avevano un po' di know-how. Non ho capito che cosa è successo dopo la prima volta. Esatto. Non lo so. È come l'inalato al contrario, forse. Sì, avevano venduto tutto. A un certo punto hanno venduto tutto. E poi hanno fatto un viaggio e poi dopo hanno speso tutto. E poi sono tornati e hanno detto, raga, non c'abbiamo più niente. Esatto. E via, di nuovo. Essenziali per il viaggio. Quindi la grande lezione che ci danno i nostri amici è che si può vendere tutto, che ci si può fare dei soldi, ma soprattutto non attaccarsi alle cose materiali. Ora, il vostro oggetto a cui siete più attaccati? Materiale. Allora, non vorrei essere banale, però la dura verità è un po' il telefono è la cosa materiale a cui purtroppo sono più attaccata. Senza però, fare l'originale. Vabbè, tolto il telefono. Tolto le cose, diciamo. Cioè, pensiamo a cose necessarie, cose anche magari di valore o non di valore, però a cui tu sei molto attaccata. Che se le perdi, piangi. Beh, la bici. La mia bici. Io alcune paio di scarpe. Io però non ci farei un botto di soldi. Io non lo so, neanche io con la mia bici, perché tutta arrugginita. Quindi sì, anche grosso... io non ho niente con cui farei un botto di soldi. Sono un po' attaccata a un po' di vestiti che ho, che mi piacciono e che mi fanno sorridere e mi fanno un po' princi. Sparks joy. Scappellottini. Esatto. Marzi c'ha anche una volta ho princi. Perso un braccialetto che mi era stato regalato e ci sono rimasta veramente molto male. Quello era un legame però lì la lezione più grande me l'ha data chi, non mi ricordo chi, ma mi ha detto i ricordi sono dentro di te. Non ti affezionare mai alle cose, vedi? Perché poi le perdi. Esatto. Ah, forse è Marta, la mia cugina. Forse è mia madre. O forse è mia madre, esatto. Sì. Non ti affezionare mai alle cose, perché tanto le perdi, te le rubano, la sarà sempre così. Oppure le vendi facilmente. E via. Io ho una domanda per chiudere questo tema dell'essenziale. È l'essenziale. Allora, la classica domanda che si fa abbastanza spesso: se dovessi andare in un'isola deserta, che cosa ti porteresti? Togliamo telefoni, soldi, cioè cose basic, bitch. Beh, io sicuramente una valanga di coltelli. Chiara figa. No, una valanga coltelli. Di coltelli. Ok. Marzi. Allora, io sono già cascata dentro questo più volte. Era una domanda da date? Non era una domanda da date, ma comunque l'aggiungerei molto. Sì, esatto, l'aggiungerei. Io avevo subito risposto così di getto: mi porterei la mia playlist prefe, le cuffie e un asciugamano. Poi però avevo pensato, ero con il mio amico Nicolò e lui aveva risposto cose simili. Forse aveva risposto tipo la crema solare o lo yogurt, una roba così. Un chilo di fagi. Sì, esatto. E avevate pensato che, cioè, probabilmente noi saremmo sopravvissuti tipo un giorno. Infatti Fede ha subito risposto, direi l'unico che per ora mi ha risposto con una cosa quando utile. Abbiamo pensato all'asciugamano, noi abbiamo pensato alla comodità, alla sopravvivenza, perché che schifo stare tutto il tempo così, un asciugamanino con un po' di atmosfera, il coltello, raga. Il coltello, il coltellazzo. Ok, e tu? Mi piace. Tu, Marghe? Io in realtà vi ho fatto questa domanda, ma non ci ho pensato minimamente. Vabbè, sei due la secondi. Esatto, io balzo. Jump. Va bene. Ma jumperei verso il prossimo pezzo. Sì, abbiamo un pezzo da karaoke, raga. Come karaoke? Cerco subito il testo su Google, anche se non ci serve, secondo me. No, non ci serve. Allora, questo qua l'abbiamo scelto perché secondo noi, oltre a rappresentare, a essere il pezzo monster di questo artista, direi proprio monster, è anche il pezzo che probabilmente rappresenta tutta una scena italiana. Cioè, se io penso il all'indie, famoso indie italiano, se io penso all'indie italiano, non mi viene che a pensare a Cosa mi manchi a fare del carissimo Calcutta. A bello. La pioggia scende fredda su di te, Pesaro, una donna intelligente, forse è vero ti hai fatta trasparente, ma non ci cascherai mai. Provare. Ricordami, le olive sono buone, mi prenderò un gelato con il tuo sapore, ti spaccherò la faccia se non mi dai cuore, ma non mi importa se non mi ami più, e non mi importa se non mi vuoi bene, dovrò soltanto imparare a camminare, dovrò soltanto imparare. Manchi a fare, ti prego dimmi che cosa mi manchi a fare, tanto mi mancheresti lo stesso, che cosa mi manchi a fare, ti prego dimmi. Ma io ti dichiaro dentro una TV che io da te non ho voluto amore, volevo solo scomparire in un abbraccio, volevo solo scomparire in un abbraccio. Soltanto imparare a camminare se non ci sei tu. Papi, la merenda? No! Annina, me la son dimenticata. Ma io ho fame! Dai, va bene, resisti fino all'angolo. Da Ahmed? Esatto, dal nostro caro amico Ahmed. Panificio Cellini, la tua focaccia preferita dal 2021. Un forno caldo a Milano, ad angolo tra via Marcona e via Cellini, per rendere le tue merende ancora più soffici. E fa anche caffetteria! Ma è sofficissima! Vi farà ridere per sempre, penso. Bellissimo, siamo bellissima. Bravissimi. Va bene, ma lo sapete che, tra l'altro, lo sapete? Non tra i miei pregi questa voce acuta che mi viene ogni no, tanto. No, Lorder. Capolottini all'ascolto, non mi recriminate, no, la cosa, io ho avvisato. No, però, lo sapete che... Posso dire? Posso? Ok. Lo sapete che... Battiato... Oh! Mi spoileri così la prima altra notizia della settimana. Battiato, ovviamente mi sono messa a leggere tutte, tutti abbiamo letto. Vabbè, pur Battiato, pur RIP. E lui ha scritto la colonna sonora di un film che si chiamava tipo Lo scultore disperato, qualcosa così, su Benvenuto Cellini. Ma vabbè, te lo giuro, male, infatti, vabbè, da vedere, raga, nella mia lista da vedere assolutamente Benvenuto Cellini, il film con colonna sonora di Battiato. Ma quanta romanticità acquista la mia via. Ma posso dire quanto siamo avanti? Madonna, pensavo fosse uno sfigato Benvenuto Cellini. Invece a quanto pare, magari il film fa schifo. Anche perché tutti dicono sempre Via dei Cellini. Io ci ho messo 3 ore a capire come si diceva, ad esempio. Vabbè, va bene. Quindi, innanzitutto grazie al nostro sponsor. Ah sì, esatto. Grazie. Grazie mille. Panetteria, grazie. Prossima mille. Puntata ce ne saranno degli altri. Forse. Se qualcun altro ci manda. Perché no, comunque pare che i risultati di questa sponsorizzazione siano stati ottimi. Hanno venduto come 20 non milioni, mai. 20 milioni, esatto, più di pizzette. Quindi ragazzi, cioè, per me, tutti quelli che volete, noi siamo pronti. E va bene, iniziamo con le altre. Riempiteci dei vostri spot. Esatto. E intanto le altre notizie della settimana. Vabbè, la prima l'abbiamo bruciata così, ma bruciata bene, dico. Ma non facciamo il jingle delle altre notizie della settimana? Ah no, sì, scusami. Le altre notizie della settimana solo per te, solo per oggi, su Radio Zam. Bellissima, bellissima. Questo jingle delle altre notizie della settimana. Abbiamo un lavoro di recording notevole. Infatti settimana questa o la prossima ci tenetevi libere, esatto. Vorrei dire a tutti e che dai, non le studio. Non le studia la Marzia, no, vero? Le inventa sempre sul momento. È così, è spontanea. Io ho una creatività spontanea. Spontanea, sì. Scapolottini, spontanea. C'è anche la creatività spontanea. Comunque, prima notizia della settimana, che ovviamente sai che è. Ovviamente, purtroppo, veniamo qua a darvi questa notizia, che è morto, ci ha lasciato. Ah, pensavo che i Maneskin ne sei. No. Che appunto ci ha lasciato Battiato, okay. Artista, secondo me, tipo tra i 3 migliori artisti italiani di sempre. Io vi dico che per la prima volta non mi è mai successo, il giorno stesso andando al lavoro mi sono ascoltata Battiato. Non mi era mai successo che alla morte di un artista, direi di un musicista, io poi mi ascolta, non so, non sono così romantica su queste cose. Invece con lui mi è venuto più che spontaneo. Quindi l'ho trovata una cosa molto, sì, molto, molto triste questo avvenimento. Tutti molto affezionati a Battiato per un motivo o per l'altro. Sì. Quindi vabbè, è un gran uomo. Sì, quindi, esatto. Grande artista. Grandissimo. Gran tutto. Seconda notizia della settimana. Seconda? Il signore più, diciamo, no, rifacciamo. Drake è stato nominato l'artista più rilevante del decennio dalla rivista Billboard. Ha ritirato il premio col suo figlioccio. Tutti quanti avete visto le foto, il figlioccio con le treccioline. Cosa aveva Drake in testa? No, Drake si è rasato i capelli a forma di cuore. Qua. Fatto lui. E niente, quindi volevo chiedervi, secondo voi è un premio sensato? Direi di sì, dai, sì, direi di sì. L'artista più rilevante del decennio, raga. Decennio è tanto. Allora, è tanto decennio. Sì, è tanto. Devo dire che a me Drake mi triggera, mi piace. E cos'era? Una farfallina. Vengo ossessionata da queste farfalline. No, tranquilla. Okay. No, sì, Drake mi piace, in effetti non so pensare a un altro artista che cioè nel senso artisti così più rilevanti. No, non lo so, probabilmente ci sarebbe stata qualche donna, tipo Rihanna. E infatti qua esce la mia domanda. Ma Drake, questo l'ho preso un po' dall'Instagram, dalla Elena Mariani. Ci piace. Però ve la propongo anche a voi. Ci piace. Ma Drake è andato con suo figlio a ritirare, eccetera, perché voleva far vedere a Rihanna, va che bene che sto, nonostante tuo amoroso, ed è la terza notizia della settimana, sia il più fregno del mondo. Questo premio meritatissimo, secondo me, io ad ASAP Rocky, credo io e una serie di altre persone. Tra cui mi ci metto anch'io, raga. Gliela lancerei con una fionda, praticamente. Su quello no, non posso dire lo stesso, ma sì, GQ. Ha nominato ha detto che ASAP Rocky is the hottest man alive. Porca, cioè, raga, trocchia. Cioè, il giorno che mi faranno una copertina in cui io posso essere the hottest man alive, che per chi non parla inglese è l'uomo più figo del mondo attuale, vivo. Cioè tu sei la cosa maschile più bella del mondo. Io posso anche ammazzarmi. Ecco, ma come ci siamo chiesti che cosa fareste voi se doveste vincere nell'Enalotto, che cosa fareste se a un certo punto foste nominati the hottest woman alive? Esatto. Questa è una domanda che non mi sono mai posta, ma che vorrei forse porvi. Beh, io ero secondo, quindi hanno scelto ASAP. No, va bene. No, non lo so, non me lo sono mai posto. Così di pancia, spontanea. Spontaneamente, ma chiamerei mio nonno e gli come direi: "No, sono sulla copertina". La spontaneità di Marzi è proprio questa, sta nelle piccole cose belle della vita. Molto bello. Sì. Quindi niente, ASAP Rocky è il the hottest man alive. E io se me lo ce l'ho la risposta, io farei un post su Instagram semplicemente riportando questa. Ma semplicemente ASAP l'ha fatto e ha scritto nella caption del post su Instagram, era tipo the hottest nigga alive. Io ASAP ci ha tenuto a far sapere questa, io come ASAP questa cosa, quindi niente. Va bene, forse ASAP come prima cosa ha chiamato Drake. Sì, e l'ha detto bella zii. Tu sei il più rilevante, ma io the hottest man. Se non riuscite a farsi una birra e a congratularsi con essi stessi, anche perché in tutto questo ricordiamo a tutti gli ascoltatori che sono stati meno attenti negli ultimi tipo 10 mesi, ASAP Rocky sta con Rihanna, tra l'altro, quindi insomma su questi canali, esatto. Forse ASAP Rocky le ha mandato un bel dito medio, soprattutto intanto che succedeva oltre oceano tutto stambaradam e ASAP Rocky e Drake di qua nell'Europa e Doja Cat e Sisa che si cantano tutte, sì. Di qua dal nell'Europa, esatto, di qua dall'Atlantico succedeva che ci sono stati l'Eurovision. Ma il punto non è l'Eurovision, no. Il punto non è neanche che hanno vinto i Maneskin, che hanno vinto l'Italia, perché chi se ne c'ava? Assolutamente no. Il punto qual è? Il punto è questo, che per 3 giorni si è parlato da italiani, hanno coperto solo questa notizia. Sì, è vero. Del fatto che forse... No, sì, esatto, hanno coperto solo questa congiura della Francia nei nostri confronti. Che soprattutto mi viene da dire, la congiura qual era? Il fatto che c'è questo footage, nel caso qualcuno non l'avesse usato, c'è questa immagine. Se siete eremiti, esatto. In cui il Damiano, eremites, come in, eremites, please. I have to tell you the story. Listen, Mo stava Damiano dei Maneskin, no? Che in questi tipo decimo di secondo. Mentre i suoi compagni festeggiano. Sì, perché tutta la sito è Eurovision. In realtà è molto festereggia. Sono tutti ai loro tavoli con tutti le loro sbronzi, bottiglie. Tra l'altro. Sì, sbronzi. Però l'alcol non è un mostro. Non è un mostro. Invece però, quanto pare, Damiano, per un secondo, china la testa verso il tavolo, lo ritira su, tra l'altro senza aver cambiato nulla tra l'altro io stamattina, scusa, finisci? E tutti quanti, beccato da Damiano. No, perché è stata una zia, una tipa X, tipo una giornalista, non lo so, mi sa inglese, sì, che sì, ha sì, fatto sì. questo post. Pezzi di merda, la Gioconda. Esatto, questo tweet che è andato viral. Mega infamatorio. In cui ha detto, avete visto tutti the guy, line of coke. Ma tra l'altro, scusate, io stamattina mi sveglio col retroscena di questa immagine. Sto poveretto, tra l'altro, stava facendo una videochiamata. Cioè, era così chinato perché stava facendo una videochiamata. Ah, ok. E quindi stava salutando. Ma io avevo letto che gli si era rotto un bicchiere. No, allora quindi non era, era okay. Forse una fake news. Sì, mille voci su perché Damiano si sia abbassato. Damiano a quel punto dice: raga, mi faccio il test. Ma che tra l'altro è già assurdo anche questo. Sì, no, ma infatti lui è un po' ridicolo, posso dire. No, ma cioè che ti venga da chiedere. Cioè, ma Damiano, ho capito, ora, però. Secondo me Damiano rosicava del fatto che non l'hanno fatto pippare proprio. Esatto. E quindi ha detto: vabbè, mo ve lo faccio vedere almeno. Ero pulita. Ma di fatto, cioè, qual è, nel senso, ora, non, né per mitizzare né per bigottismo, però dico, anche se fosse stato. Ma mica sono atleti? Ma qual è il problema? Aveva già suonato. Ma qual è il problema? Cioè, vabbè, nel senso che dai problema. Il messaggio. Vabbè, però, è una senso, droga, è una droga illegale. Stamattina ho visto un post che facevo ridere, con Kate Richard e Mick Jagger, che la cosa, la caption diceva: mo facciamo il test antidroga. E loro che ridevano come dei pazzi. Beh, Damiano, mi dispiace per te, ma nel mondo del rock non hai fatto una bella tesoro, scena. Non sei una rockstar, cioè, non forse, sei speciale tesoro. Forse su Disney Channel, forse su, ma not a rockstar. No. Stato, no. Che niente, hanno vinto Maneskin, tutti contenti per questa cosa. Però una riflessione che mi è venuta da fare alla fine dell'Eurovision, vedendo anche poi i dati di Spotify sulla Global, sulle playlist Global, sono entrati un botto di canzoni dell'Eurovision, no? E mi è venuta quasi questa considerazione che vi lascio. Cioè, non vedete che forse li meritiamo i Maneskin? No, a parte che ci meritiamo i Maneskin, ma il mondo... Cioè, se l'Europa si unisse come mercato, potrebbe essere più forte e più interessante di quello degli Stati Uniti? Beh, musicale. Musicale. Perché su tutto il resto dei mercati è esattamente perché esiste l'Europa. In che senso? Cioè, l'Europa esiste perché in quanto forza commerciale non è molto più forte, però può competere con la Cina. No, ma su quello sì, perché comunque tu parli di un'economia, per dire, prendiamo l'esempio dell'economia, in quei grandi numeri, in quelle grandi dimensioni, la puoi paragonare tranquillamente fra Cina, Stati Uniti, Africa e Europa. Il fatto della musica, al di là della nostra, della barriera musicale, della barriera linguistica in generale all'interno dell'Europa, è proprio un limite che forse l'Inghilterra è l'unica che ha un po' di rilevanza all'estero forte, cioè non un po', oltre agli Stati Uniti. Però stavo pensando che se ci fosse un po' più una scena europea, che è un po' tipo quello che stanno tentando di fare un po' di giovani ragazzetti rapper, no, però in realtà c'è anche le connessioni, le collaborazioni, potrebbe avere una rilevanza. Cioè, ci riesce Dua Lipa a fare questa roba qua, ma perché con Dua Lipa? Agnes. Agnes, esatto, ma per essere un artista, cioè, nel passato gli inglesi, vabbè, però nel senso, ho fatto questa riflessione qua, volevo dirvela adesso. Hai fatto bene. Parlando di Dua Lipa, scivoliamo Dua Lipa. Così nell'ultima notizia, altra notizia della settimana, che vabbè, anche qui, a meno che voi non siete degli eremiti, immagino che abbiate... Dai, qua un po' meno grave, nel senso che magari oggi uno non ha ancora aperto il telefono. Vabbè, però, insomma, vabbè. Comunque, diciamo che se vi professate ascoltatori di buona musica, ecco, non correggo potete, il tiro. Non potete non aver notato che è uscita la lineup, doppia lineup del Primavera Festival. Un sacco di nomi interessanti. C'è Dua Lipa. C'è Dua Lipa. Il secondo weekend. Esatto. E la cosa interessante è che per festeggiare i 20 anni del Primavera e poi la mancanza per 2 anni del festival, gli organizzatori hanno pensato bene di fare un per due, quindi primo weekend di festival classico come c'è sempre stato, poi una settimana di eventi non al Parc del Forum, quindi non al Festival Centrale, poi il weekend dopo replicare un po' con line-up del primo weekend e un po' con nuovi artisti. Un po' Coachella però. Un po' Coachella, sì. Però il Coachella di noi altri. Esatto. Il famoso Coachella europeo. Il Coachella europeo. Eccoci. Beh, Primavera mi viene da dire che è Beh, lo il Coachella è, lo europeo. Lo è, lo è. Beh, forse Glastonbury. Ma secondo me è un po' come un po' perso. Sì, no, ma poi come immaginario un po' più Primavera, un sì, po' più sì. Coachella. Le ragazzette hipster vanno a Primavera, non vanno a Glastonbury. Esatto, o esatto. Andavano forse a Glastonbury, perché ha perso un po' di fascino il Glastonbury. Sì, ma poi c'è stivali sì, alti. C'è andata la Ferragni, vi ricordate? Sì. A Coachella. No, a Glastonbury. Ah, sì, anche Coachella, chiaro. Sì, sì, io mi ricordo. Era gli inizi della sua carriera da influencer capo del mondo. Ecco. E fu così. Va bene. Dirò una mia previsione, ragazzi. Vai. Miei. Nel 2022 suoneranno tutti ovunque perché non hanno esatto. più un euro bucato. Esatto. Chiudiamo così tutti pane a... per... Guarda come si chiude il cerchio. Per non vivere una vita di pane e acqua, suoneranno tutti ovunque. Esatto, e faranno vivere noi a pane e acqua dopo essere andati ai festival. E con questa perla, raga, vi salutiamo con l'artista più rilevante del decennio. Ciao raga, ci vediamo tra due settimane. Enjoy la primavera. Baci. Saluta Fede. Ciao a tutti. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray.